Butto uno sguardo al mio futuro, cerco di guardare lontano ma il panorama è troppo scuro. Io non ci vedo chiaro, non posso andare oltre il mio sentiero perché laggiù mi attende un muro. Non posso andare avanti, sto proseguendo, senti, vivo sta vita contornato da momenti deprimenti. Mi sento solo, a volte mi par quasi della vita di aver perso il filo. Non c'è più un senso, sta andando tutto controsenso. Il mondo dove vivo va d'accordo col dissenso. Sono bloccato, non ho più una speranza, non ho più un'esistenza, sono spacciato. Tu l'hai pensato? Dai uno sguardo al tuo venire, dimmi poi se ti sei visto cresciuto. Vivi come me una vita che ti è illuso, prosegui la scalata, vince che alla fine non ha il muso. Allora tutti noi siamo perdenti, non c'è corona alla fine per quanto si stringano i denti. Non si va avanti in questo mondo di rottami, restiamo uniti fratelli, stringiamoci le mani. Allora tutti noi siamo perdenti, non c'è corona alla fine per quanto si stringano i denti. Non si va avanti in questo mondo di rottami, restiamo uniti fratelli, stringiamoci le mani. Viver non è facile se addosso la paura, l'incertezza del futuro che ti cresce a dismisura. Ti trovi ad affrontare un mondo che non premia il migliore, ma i figli di papà i raccomandati e questo è uno squallore. La vita va vissuta e non buttati ai 420, ma come si può fare quando intorno incompetenti? Vorresti riuscire a poter dire mi sento realizzato, invece quello che sento più spesso è mi sono rassegnato. Oggi ci sono troppi problemi e le nostre vite ne sono gli emblemi. Alla fine del giorno restano solo dubbi e amarezza e ti senti sopraffatto dall'insicurezza. Quello che manca è la speranza, che non ti dà motivi per tentare di rialzare la testa. La paura ha migliaia di facce, ma quello che non dobbiamo fare è cedere alle sue minacce. Allora tutti noi siamo perdenti, non c'è corona alla fine per quanto si stringano i denti. Non si va avanti in questo mondo di rottami, restiamo uniti fratelli, stringiamoci le mani. Allora tutti noi siamo perdenti, non c'è corona alla fine per quanto si stringano i denti. Non si va avanti in questo mondo di rottami, restiamo uniti fratelli, stringiamoci le mani. The future is like a blank page, where to write the story of our life. What we gotta do is going on, holding our heads high. The future is like a blank page, where to write the story of our life. What we gotta do is going on, holding our heads.